Cinema Massimo. La storia del cinema con Massimo Pica. Benvenuti, vi do il benvenuto nuovamente alla terza puntata di Cinema Massimo su Radio Abba Walla. Io sono Massimo Pica e sono qui con voi per la terza volta in questo programma, che è un programma liberamente pensato, ideato e condotto da me. Su il tema è il cinema. Io mi hanno chiesto di partecipare, io ho aderito volentieri. E ho deciso di cominciare da uno degli autori a cui sono più affezionato, che è Woody Allen. Nelle prime due puntate abbiamo trattato i suoi primi film, i film puramente comici, fino ad arrivare l'ultimo film di cui abbiamo parlato settimana scorsa, è stato Io e Henny, un film forse il suo punto di riferimento per gli anni 70 di sicuro, sicuramente un film della svolta. Vi ricordo che Radio Abba Walla è una radio web, quindi potete ascoltare e riascoltare i nostri programmi liberamente sul web. Tutta la musica che sentite è in Creative Commons, quindi assolutamente libera, è una scelta editoriale la nostra, quindi sentitevi liberi di ascoltare, riascoltare, apprezzare i brani che vi proponiamo tra le mie parole e quelle degli altri. Ci saranno, vi proporremo dei brani di cui vi faremo poi sapere titolo e autore. Ma ora continuiamo, andiamo avanti con la carriera di Woody Allen. Siamo arrivati a Io e Henny, abbiamo detto il film della svolta, una svolta soprattutto dal punto di vista della considerazione, possiamo dire la consacrazione definitiva. Il film vince degli Oscar, miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, forse inaspettato per tutti, perché il film era uscito molto molto prima di quando vengono consegnati gli Oscar. Forse qualcuno si pensava che il film fosse stato un po' dimenticato, però come sempre capita, gli autori sono un po' strani. Allen considera il film quasi come un fallimento personale, cioè non era il film che lui voleva qualcos'altro, voleva fare un film molto più lungo, oltre le due ore. Il film viene tagliato e ritagliato per l'ennesima volta, arriva a un'ora e mezza scarsa, però è un film che lo consacra e gli permette forse secondo me fare il passo più lungo della gamba in questo caso, perché il film successivo che Allen propone alla United Artists è un film drammatico. Si tratta di Interiors, ed è un film dove lui non recita, è il primo film diretto da lui dove lui non partecipa come attore, e lasciatemelo dire, secondo me si vede, è un film di assoluta ispirazione bergmaniana, quindi sguardi, dialoghi molto lenti, situazioni al limite della depressione. Qui le protagoniste sono tre donne, tutte con problemi molto profondi, però è un film veramente veramente lento e anche difficile da apprezzare, da guardare. Anche i più sfegatati fan di Woody Allen non penso che l'abbiano visto più di una volta, perché veramente non è tra i miei preferiti. E anche la risposta della critica, del pubblico, sarà molto fredda. Il film viene proiettato, si dice che fu proiettato in una proiezione di prova in una sala gremita di VIP, che quasi in imbarazzo di fronte a un film del genere rimasero in un silenzio attonito dalla tale lentezza e drammaticità di quello che veniva proposto. Però diciamo che forse questo era nella testa di Woody Allen, era il cinema che lui avrebbe voluto fare, o che un omaggio al suo, uno dei suoi autori di riferimento, Bergman. Però non è un film che i suoi fan hanno apprezzato assolutamente, anche se lui probabilmente se lo sentiva, voleva provare, era arrivato, non voleva essere sempre il solito giullare, il comico, far sempre ridere. Infatti non partecipa forse proprio per questo come attore, perché per non far cadere il film in una situazione di comicità, però il film non prende i suoi fan, che per fortuna verranno ripagati col film successivo. Il film successivo è Manhattan, anche qua uno dei suoi film meglio riusciti, di cui però vi parlerò più tardi, cercando di delineare questo film, no? Questo film in bianco e nero che lui con cui lui diventa l'icona di New York nel mondo. Cioè, quando si parla di New York, Woody Allen è forse uno dei suoi simboli in questo momento, è un simbolo vivente. Parleremo più avanti di Manhattan, il film successivo, però ora vi lascio con un brano in Creative Commons, Ultra Swing con Mr. Juan, preso dall'album King Kong Man. Bentornati alla terza parte della terza puntata di Cinema Massimo. Siamo ancora qui a parlare di Woody Allen. Siamo su Radio Bawalla con in sottofondo un Creative Commons, Regis von Gronow, Blue the Lights, dell'album Paris in the Rain. Stiamo parlando di Manhattan. Avevo accennato prima di come questo diventi forse uno dei simboli della città. Ricordiamo tutti il manifesto del film, no? Con Allen e la Keaton seduti su una panchina con lo skyline di New York in bianco e nero. Il film è in bianco e nero, è un omaggio forse alla città per renderla un po' più affascinante, a un cinema superato, un cinema di qualche anni fa. Infatti il film inizia con La Rhapsody in Blue di Gershwin, che incornicia proprio il tempo in cui Allen, o come Allen vede la New York che lui vive, questa New York composta da gente che ha veramente molti dubbi, perplessità, problemi, soprattutto sentimentali. Qui è un, diciamo che è molto più di un, questo film si sviluppa molto più di un triangolo amoroso, perché ci sono situazioni, c'è Allen che ha nel film una relazione con una 17enne, Stacy, Mariel Hemingway, l'attrice, nipote dello scrittore, quindi c'è questa relazione con una minorenne. Contemporaneamente il suo miglior amico, un uomo sposato, ha una relazione con Mary, Diane Keaton, di cui anche Allen durante il film, prima dopo un battibecco iniziale, perde la testa, e con cui avrà anche lui a sua volta una relazione che porterà a pianti, insicurezze. Diciamo che la Mary del film potrebbe essere forse una continuazione della Annie, di Io e Annie del film di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Sono idee o cose che potrebbero ricordarlo. Importante ricordare nel film anche la presenza di Meryl Streep. Meryl Streep interpreta l'ex moglie di Allen. La cosa divertente è che in realtà Meryl Streep ha una presenza molto forte, perché conosciamo tutti quanto è brava, ma in realtà lei partecipò al film e ci lavorò solo per 3 giorni, compare in pochissime scene, però ha una tale forza, una tale presenza che riempie lo schermo, secondo me, ed era ancora giovanissima a quel tempo. Lei non avrà mai particolari parole di elogio per Allen, perché lei non avranno mai un bel rapporto, alla fine hanno lavorato veramente poco insieme, però lei disse alla fine è stato bravo, perché in quel film mi sono sentita veramente bella, quindi si è piaciuta, meno male. Ma una delle caratteristiche, forse una delle, diciamo, degli aneddoti più particolari di questo film, è che durante le lavorazioni del film Allen poté realizzare uno dei suoi sogni, che fu quello di incontrare Bergman, che è uno dei suoi registi di riferimento. Lo incontrò a New York, e con cui alla fine, da quello che si sa, invece di parlare di film cominciarono a parlare di affari. Quanto guadagni tu? Hai mai fatto dei fallimenti? Tutte cose così, però vabbè, gli artisti sono fatti così. Ci sentiamo dopo con il prossimo film, Stardust Memories. Ora vi lascio con un pezzo in Creative Commons, grazie. Ok, bentornati a Cinema Massimo. Abbiamo appena ascoltato in Creative Commons di Octopus, Signal B, dall'album The Beehive Recording. Tutti i pezzi che sentite su Radio Baguala sono in Creative Commons, come il sottofondo che stiamo ascoltando, Maria Rhodes, Paris, Sintecnica. Comunque, il discorso che stiamo portando avanti, siamo arrivati agli anni 80 con Woody Allen e abbiamo lasciato Manhattan, il film che è il simbolo, forse uno dei simboli della città di New York, che è uno dei suoi più riusciti e meglio più rappresentativi della città. Il film venne presentato nel 79 a Cannes ed ebbe un buon successo, ma non, diciamo che non venne considerato troppo dall'Academy Awards, non fu premiato, forse ingiustamente, però non importa. Ora entriamo negli anni 80 ed entriamo negli anni 80 nella carriera di Woody Allen con il film Stardust Memories. È un film, come possiamo definirlo, un contraddittorio molto particolare, un film ispirato al cinema europeo. Per molti si tratta di un film autobiografico, anche se lui negherà sempre, influenzato probabilmente dal flop di Interiors, il film che lui fece di ispirazione bergmaniana, nel quale lui si sente quasi come obbligato, no? A produrre un certo tipo di cinema pur non sentendosi parte di questo mondo. Cioè, in realtà lui voleva fare del cinema diverso, ma la gente da lui voleva la risata, voleva ridere. Quindi questa incongruenza, questa volontà di essere capito, apprezzato, ma cioè l'assurdità, essere apprezzato, capito, ma non riconosciuto per strada. Cioè, il film sulla popolarità, c'è una persona che cammina come Woody Allen, era infastidito dall'essere riconosciuto, eppure è una star planetaria, lo conoscono tutti, è ovvio che venisse riconosciuto. Quindi c'è questa incongruenza. Anche in questo caso il film non è dei suoi così che più ricordiamo volentieri. È un film molto contraddittorio, soprattutto perché viene accusato di essere quasi un plagio di Fellini e degli 8 e mezzo. Molte scene sono ispirate, diciamo così, a Fellini, e non viene apprezzato, soprattutto perché non rende l'Allen che tutti vogliamo, che tutti conosciamo. Una delle caratteristiche che voglio ricordare di questo film è una caratteristica del montaggio, è una cosa tecnica, perché in questo film cambia il montatore, non è più Rosenblum, che ha salvato tanti film di Woody Allen, ma diventa Sandy Morse, che utilizza una tecnica di montaggio chiamata jump cutting, che è usata prima anche da Godard. Praticamente, detto in breve, che invece di inquadrando sempre lo stesso soggetto che si sposta, invece di far vedere lo spostamento vengono fatti dei piccoli tagli di montaggio in cui la persona sembra scattare da una posizione all'altra. È una tecnica che prova a rendere il ritmo del film un po' più veloce, un po' più intenso. Ricordiamo poi l'apparizione di Sharon Stone nella prima scena del film, l'esordio assoluto, che manda un bacio a Woody da un treno opposto sul binario opposto. Ok, ora parleremo dopo dell'ultimo film di questa puntata. Siamo arrivati a Zelig nel 1983. Vi lascio con un pezzo in Creative Commons. Grazie, a dopo. Bene, bentornati ancora su Cinema Massimo. Sono sempre Massimo Pica, siamo sempre dalla radio web Radio Abawalla qui a Ivrea, nella sede di Libera. Abbiamo appena ascoltato il brano in Creative Commons Sleeping Policeman Vogelbird dall'album Hip Hop 028. Stiamo parlando e affrontando gli anni 80 di Woody Allen. Abbiamo parlato di Stardust Memories, ci sono ancora alcune cose particolari da dire su questo film, soprattutto alcuni aneddoti. Un aneddoto è che del film la fobia dei fan, la fobia di essere riconosciuto, la paura della popolarità porta addirittura a far sì che il protagonista Allen in una scena del film venga assassinato a colpi di pistola da un suo fan. Siamo negli anni 80, nel 1980 per esattezza, sappiamo tutti cosa è successo proprio a New York nel 1980 a dicembre. È stato assassinato proprio da un fan e con un colpo di pistola John Lennon, quindi quasi un sogno premonitore, un aneddoto particolare su questo film. È un film sulla celebrità e una delle particolarità, una delle forse fobie che aveva Allen era quella di non far conoscere più di tanto la storia al cast. Il cast era quasi all'oscuro di quello che succedeva. Ogni attore sapeva solo ed esclusivamente le parti che lo riguardavano, non aveva il copione completo, quindi imparava le sue parti e faceva quello, non conosceva la storia. Quindi questa voglia di tenere tutto nascosto, tutto quasi imbottito, senza rivelare cose neanche al cast, quindi sono situazioni tutte sue che si porterà dietro anche adesso che, diventando più anziano, forse le amplificherà ancora di più. Abbiamo detto che il film ricorda molto e quasi addirittura è stato accusato di plagio, comunque di grande ispirazione da 8 e mezzo di Fellini in alcune scene, però il film fu sostanzialmente, dobbiamo dirlo, fu un fiasco. Non piacque né ai fan né alla critica, e questo portò alla rottura definitiva di Allen con la United Artists. La United Artists perse dei soldi e non volle più rinnovare il contratto con Allen, che rimase senza finanziamenti e passò successivamente alla Orion. Firmò un contratto per 3 film in 5 anni e il prima è la cosa che è un po' buffa, che andando, cambiando casa di produzione, Allen il primo film che propone, che cos'è? È un film assolutamente stranissimo, un film completamente diverso da tutti quelli che ha fatto prima e che non riproporrà più. Si chiama Zelig, ne parleremo più avanti. Ora un brano, The Exponential, con il brano omonimo dall'album So Go. A dopo. Yeah. Bentornati, rieccoci con Massimo Pica e Cinema Massimo, la rubrica sul cinema. Stiamo affrontando con una monografia il cinema di Allen. Poi più avanti ci saranno altre puntate su altri autori, su film, su generi che porteremo avanti. Ora ho scelto di iniziare con lui, con Woody Allen, perché era uno dei miei registi preferiti. Siamo negli anni 80, Allen cambia la sua casa di produzione, la United Artists, dopo il flop di Stardust Memories, passa alla Orion. E come vi ho detto prima, passa alla Orion con un film veramente strano, che probabilmente anche pochi hanno visto. Si tratta di Zelig, è un film del 1983 ed è un film è un documentario. In realtà l'idea originale era di farne una storia breve di una ventina di minuti, ma poi l'idea prese la mano, piacque ad Allen, che ne fece un film, un lungometraggio. È ricostruito come fosse un vero e proprio documentario che racconta la vita di una persona. La persona in questione è Leonard Zelig, il protagonista, lo stesso Allen, che ha una caratteristica. Lui è un camaleonte, ma non un camaleonte dal punto di vista solo fisico, ma un camaleonte della personalità. Lui, trovandosi di fianco a chiunque, a qualsiasi tipo di persona, ne assume le caratteristiche. Quindi lui ha delle situazioni in cui si trova con degli orientali e diventa un orientale, parlando anche in cinese o nella loro lingua. Se è in una assemblea con dei dottori, in una riunione con dei dottori, lui diventa un medico, diventa uno psicologo, diventa un ingegnere. Lui acquisisce la personalità delle persone che gli stanno intorno. E tutto è costruito con interviste, quindi interviste fatte ai protagonisti come fossero ai giorni d'oggi, e immagini ricostruite degli anni 20, in cui questo Leonard Zelig assume una popolarità nazionale, perché diventa quasi una star. La sua caratteristica di cambiare a suo piacimento, proprio fisicamente, e la personalità del suo modo di porsi, di parlare, lo rende quasi una star. Vengono fatte canzoni, vengono fatti protagonista di spot pubblicitari, insomma è proprio una star della cultura popolare del tempo. Ma adesso vi lancio un nuovo pezzo in Creative Commons, ci sentiamo dopo, però continueremo e finiremo la puntata parlando ancora di Zelig. A dopo, grazie. Ecco per voi Emerald Park con Swimming in the Rain. Rainy summer, the cloud sings low and heavy like my mind. Gray ocean, horizons seem connected to the sky. The sea felt so inviting, and the waves were so excited. The waves were so excited. I took off all my clothes and now I'm swimming in the rain. Waves and now we're all alone, just swimming in the rain, and the seagulls kept us company above. A rainy day. day down by the sea, a rainy day down by the sea, and I was swimming in the rain. Sorrow, no comfort in tomorrow, no comfort in tomorrow. I took off all my clothes and I went swimming in the rain. The waves and I were all alone, just swimming in the rain. And the seagulls kept us company above. A rainy day down by the sea, a rainy day down by the sea, and I was swimming in the rain, and the rain, and I went swimming in the rain. The waves and I were all alone, just swimming in the rain. I took off all my clothes and I went swimming in the rain. The waves and I were all alone, just swimming in the rain. Swimming. Bentornati, siamo ancora su Radio Abba Walla, siamo nell'ultima parte della terza puntata di Cinema Massimo dedicata a Woody Allen. Siamo arrivati nel 1983 al primo film di Allen con la Orion. Il primo film è Zelig, abbiamo detto è un film stranissimo, un film documentario assolutamente anomalo, è costruito anche con tecniche di montaggio molto, molto bizzarre, in cui si alterna addirittura scene di intervista con scene dell'epoca, fotomontaggi. Il film è da vedere, secondo me, più che è da cercare di capire che cosa Allen volesse comunicare con questo suo film. Secondo molti si tratta di il fatto di questo personaggio che cambia continuamente la propria personalità adattandosi a chi ha intorno, potrebbe essere una metafora del suo essere artista in quel momento, no? Di come il pubblico non fosse più totalmente dalla sua parte, in quanto lui veniva da alcuni flop come potevano essere Interiors, Stardust Memories. Quindi quasi come se lui volesse quasi inconsciamente riuscire ad adattarsi a tutte le situazioni, come Zelig, come il protagonista del film. Il trasformismo, trasformarsi in un attore, autore di successo, fare quello che piace alla gente per farsi apprezzare, anche se poi non era poi la sua personalità, non era lui, però per farsi amare, per farsi apprezzare, forse spesso non bisogna essere in questo caso troppo se stessi. Il film ha un'altra caratteristica particolare, è il primo film dove compare Mia Farrow. Mia Farrow, futura compagna di Allen nella vita e sul set, ex moglie di Frank Sinatra. Qui fa la sua prima comparsa, anche se non possiamo dire che recitasse veramente, perché non si tratta di vera e propria recitazione, sono più situazioni veloci, interviste, scene estemporanee molto quasi girate come fossero telecamere amatoriali, quindi non è questo il film in cui si può giudicare Mia Farrow come attrice, soprattutto all'esordio in una situazione del genere. Bene, comunque vi dico, tra i film non è il mio preferito, però guardatelo, alla fine può essere una cosa curiosa. Chiudiamo qui la puntata di Cinema Massimo, siamo alla terza puntata. Nei prossimi appuntamenti continueremo a parlare di Woody Allen, analizzando tutta la sua carriera. Ringrazio ancora Radio Bawalla, gli studi di Libera qui a Ivrea in via Arduino. Ringrazio Marco alla regia, alla console, Davide. E vi ricordo che tutte le canzoni, tutte le musiche che sentite sono in Creative Commons. Ovviamente Cinema Massimo non è solo Woody Allen. Più avanti, nelle prossime puntate, parleremo e affronterò altri registi, altri film, altre situazioni. Però prima, fatemelo dire, finiamo Woody, dai. Avete sentito? Cinema Massimo con Massimo Piccoli.